Sono le 22 e 7 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave, come sempre ogni mercoledì, stasera in live. E sono molto contento di ospitare Liprando, che viene direttamente da Roma in treno, vero Liprando? Certo, certo, da Caserta in realtà. Caserta. Le mie origini, non voglio rinnegare le mie origini. Da Caserta. Già mi hanno rimproverato, mi hanno detto, mi raccomando. Beh, ti sentono adesso via internet, ti sentono a Caserta. Sì, mi sentiranno, per questo. Mi hanno detto, no, poi non fare il tipo che, insomma, dice che non viene da Roma e non da Caserta. Da Caserta, poi è transitato per Roma e da Roma è arrivato qui a Padova stasera per presentare il suo album di esordio come solista. Assolutamente come solista. Sì. Io ho letto nella tua biografia che hai imparato a suonare, a farti amare il rock da tuo papà. E il rock, perché Mozart era rock, secondo me. Mozart è un musicista rock dell'epoca. Ah, certo, se oggi rinascesse sicuramente sarebbe uno dei più dei trasgressivi e avanguardisti di tutti. Tuo papà ti ha messo nel il piacere della musica, praticamente. Sì, questo è vero. Devo dire, a casa mia si è sempre sentita tantissima musica. Sin da quando ero neonato, insomma, mio padre tentava di farmi amare la musica mettendo Mozart, appunto, quando ero neonato. Quindi in qualche modo penso di averla, come dire, per traspirazione assimilata. E poi, insomma, comunque, ecco, Mozart, i cantautori, il rock and roll, la psichedelia, il jazz moltissimo, anzi, quando ero ragazzino mio padre curava proprio un programma radiofonico di jazz. Quindi è un nostro collega, praticamente. Sì, è un vostro collega, un tuo collega. E quindi, ecco, in qualche modo io ho sempre respirato un'atmosfera fatta di molta musica. E poi un'altra cosa che tu ami, il cinema, il teatro, e anche il buon vino, mi assomiglia Michele, non c'è, e anche il buon vino, qui sei in un posto dove il vino buono c'è assolutamente. Infatti non ho avuto ancora tempo, perché insomma tutto è venuto molto velocemente, però penso un paio di bottiglie prima di tornare a casa dovrei prenderle. quindi praticamente tra cibo e musica c'è sempre un connubio ideale, non ideale, vero, forte praticamente. Sì, perché credo che entrambe siano cose, come dire, che parlano del piacere. Piacere di vivere, no? Esattamente. Di vivere anche intensamente. Certo, sono cose diverse, magari qualcuno storcerà il naso a vederle messe insieme. Perché? Così facilmente, no, però comunque si parla di, appunto, di vita, di intensità, certo, di passionalità. A proposito di vita e di intensità, musicalmente ti sei formato facendo molta gavetta, facendo tanti concerti. Mi dicevi al microfono spento che il tuo gruppo ti porterà anche negli Stati Uniti, praticamente. Sì, io quest'estate suonerò con i Brothers of Four. E chi sono i Brothers of Four? I Brothers of Four sono il mio gruppo, diciamo, i miei fratelli d'origine, nel senso che sono con loro da tanti anni e facciamo insieme surf music. Cos'è in Italia il surf music? Non è molto semplice trovare un gruppo che fa surf music. È anche un gruppo importante, forse uno dei pochi in Italia che fa questo genere musicale. Certo, parliamo comunque di un genere sostanzialmente di nicchia. Però ecco, nella nicchia ci difendiamo, insomma. E, la musica surf è quella musica che andava per la maggiore negli Stati Uniti, in California in particolare, negli anni 60, sì, 70, no? Tutti ci ricordiamo i Beach Boys. I Beach Boys sono quelli che l'hanno reso più famoso, anche se quella forse è la versione un pochino, ecco, più commerciale, più nota. Poi c'è un surf un po' più oscuro, anche molto più interessante, a mio parere, che è prevalentemente strumentale e che probabilmente molti avranno ascoltato attraverso la colonna sonora del film di Tarantino, Pulp Fiction, no? Esattamente. Che è stato forse un film che in qualche modo ha aiutato il surf a ritornare un po' in auge. Sì, a essere riascoltato. Ed ecco, insomma, questi sono i Brothers of Four, noi facciamo questo da tanti anni. E come si avvicina il discorso di Brothers of Four, quindi la musica surf, alla tua musica, che no, assolutamente ha tanti connotati: psichedelia, new wave, cantautorato, qualche filone di blues, leggero filone di blues, un po' di jazz. È un po' diversa, decisamente. Sono altri sentieri, altri percorsi che hai cominciato a fare. Certamente sì, è molto distante, anche se io qualcosina ce la sento della mia esperienza con i Brothers, perché vabbè, fa parte del mio percorso comunque, certo. Anzi è una parte importante. Diciamo che io ho sempre coltivato questo lato più personale nella produzione musicale, ho sempre scritto canzoni, anche prima dei Bratipos scrivevo canzoni, qualche volta mi ricordo da ragazzino andavo in giro nei pub con la chitarrina a suonarmele così. Quindi ecco, è un discorso che in maniera molto intima ho sempre portato avanti. Poi negli ultimi anni, poiché ecco, avevo anche la necessità di trovare un canale espressivo in qualche modo più vicino a un mio vissuto più personale e anche un filtro musicale più personale, ho pensato di portare fuori questi brani e piano piano, ecco, negli ultimi anni si sono aggregate delle persone intorno, certo, a questo lavoro. Certo, è un gruppo importante. Se vuoi citiamo subito i musicisti che hanno collaborato. Ci hanno lavorato diverse persone in studio, anche come arrangiatori, ci ha lavorato Gianluca Vanità, che è un maestro molto bravo delle mie parti. Poi ancora ci ha lavorato Claudio Bartolucci, che è stato poi il produttore del lavoro. Che si chiama Conseguenze il lavoro. Che si chiama Conseguenze. Marco Valerio Cecilia, Andy Bartolucci. E questi, diciamo, sono Francesco Sciarretta, questi i musicisti e gli arrangiatori che hanno lavorato all'album. All'album. Ora invece per i live stiamo mettendo su una band che in qualche modo raccoglie parte di questi musicisti, ma se ne sono aggiunti altri. Tra cui Fabrizio Settimi, per cui ecco, ora dal lavoro in studio stiamo passando al lavoro dal vivo, che è comunque qualcosa di diverso. Tu come lavoro fai ricercatore, e secondo me in questo album, in queste conseguenze che sì, come tu giustamente hai detto, ti sei allontanato, sì, però qualche collegamento c'è con la band cui di solito suoni. In realtà io penso di sì, insomma, in qualche sonorità, qualche anche l'utilizzo degli strumenti, ecco, chitarre vintage, esattamente, no? Che sono le chitarre poi che uso con i Bratipos, quindi io credo che in qualche ritmo, in qualche suono ci sia qualcosa. Perché ricercatore, ma hai fatto una ricerca sui suoni da solista, l'album è una ricerca di sonorità, non dico particolari, ma ben sistemate, ben calibrate pezzo per pezzo. Sì, sicuramente ci abbiamo lavorato molto. Ecco, diciamo che l'origine di ogni brano è stata sostanzialmente istintiva. Ho capito. Quindi si è cercato un suono, un riff, qualcosa che ci suggerisse un'emozione, perché poi l'idea era sempre quella di restituire alla musica il suo valore anche più semplice, no? Più pop, certo. che possa emozionare in maniera immediata. E da questo poi insomma ci abbiamo lavorato anche più tecnicamente. Di Cesello in alcuni momenti. Certo, poi abbiamo fatto un lavoro piuttosto intenso. No, il disco è molto interessante, ma abbiamo tempo fino alle 24 per parlarne. Bene. E come da nostra consuetudine apriamo la finestra per sentire il disco vero e proprio, poi sentiremo il tuo discorso live, che è un discorso molto importante, cari ascoltatori. Io ho sentito le prove qualche minuto fa, l'effettistica a Rock Wave non è mai entrata, stasera è entrata per la prima volta, è una cosa molto positiva. Mi fa piacere. Fa piacere anche a Michele, che è riuscito a sistemare le cose benissimo, e sarà una cosa molto interessante secondo me. Sentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto da album, che è il pezzo di esordio del disco praticamente, hai scelto la traccia numero uno. Sì, Lasciami Entrare. Perfetto. Lasciami Entrare, che è in qualche modo il singolo dell'album, insomma il pezzo che stiamo tentando di far girare di più, che stiamo facendo ascoltare, per il quale abbiamo realizzato anche un video che può essere visto sul mio sito, che è www.liprando.it, sul sito YouTube, certo. Insomma è disponibile in tutte le forme mediatiche possibili e immaginabili, ed è il brano che in qualche modo apre il disco e che ecco, insomma, vuole essere anche un po' la presentazione di questo lavoro. Perfetto, lo sentiamo allora. Aspetti il giorno e vivi dentro. Proverò a tenerti lontano. che non ci proverò a tenerti lontano, lontano, lontano. Aspetti il vuoto e vivi dentro, oh, promesse chiuse nel tuo mondo, oh, il sole è andato ma restiamo noi, non è rimasto molto ormai, lasciami entrare se lo vuoi, lo vedi io lo so che non riuscirò a tenermi lontano, lontano, lo vedi io lo so che non ci proverò a tenerti lontano, lontano, lontano. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Eccoci qua. Sì, l'attitudine punk che parlavamo io e Liprando mentre il pezzo andava, si sente anche nel finale, cosa dici? Questa accelerazione giusta che ci sia, e quindi c'è proprio l'attitudine punk nel vero senso del termine, anche se, ripeto, il tuo disco non è un disco punk, ma questo non vuol dire assolutamente niente. L'attitudine c'è, cioè il coinvolgimento, il modo di cantare, di far muovere la gente, di dare una scossa, è quello che serve. E poi le cose nel disco sono un po' diverse, ci sono delle planate musicali, se possiamo dirle così. Sì, io penso che dici bene, c'è sicuramente un'attitudine punk, ci sono tante attitudini, anche perché come dicevamo prima, in realtà io davvero ho ascoltato tante cose. E se c'è una caratteristica che questo disco ha è che è un disco prodotto in assoluta libertà. Quindi senza nessuna pressione. Sì, senza neanche farsi troppi problemi legati al target, come deve essere, come non deve essere, cosa... Insomma, è stato un disco molto istintivo, molto diretto, molto autentico, insomma, nel bene e nel male. E quindi è anche un po' il filtro, il mio filtro personale, il mio modo di filtrare i tantissimi ascolti della mia vita, della mia esperienza in queste canzoni, che poi alla fine appunto sono canzoni, non, nulla di più, nulla di meno. Sì, sono canzoni, nulla di più, nulla di meno, è vero, però canzoni che sono frutte di esperienze, come tu giustamente hai detto, è frutto di un lavoro lungo. Sì, sì. Mirato, chiaramente. Sì, sì, ci abbiamo lavorato tanto. Certo, ecco, sono canzoni che sono partite da me, poi appunto, come dicevamo prima, sì, hanno lavorato tante persone. E poi, ecco, questo è il bello di lavorare insieme. Ognuno contribuisce con il suo vissuto, il suo punto di vista. E quindi il tutto è stato arricchito da questa, no? Da questo incontro fortunato. Poi dobbiamo sottolineare una cosa che tu mi hai detto mentre i microfoni erano spenti: l'appoggio che ti ha dato la casa discografica, che ha creduto in te praticamente. Sì, sì. Io... Che non è semplice quei tempi che corrono. No, devo dire, di questi tempi, persone che investono in un artista, in un musicista, case discografiche che facciano questo sono piuttosto rare, no? Ormai, certo. Con la crisi discografica, giustamente si tende ad andare sul sicuro, a puntare, come dire, su... Sì, i prodotti che prodotti, usa e getta, però. Usa e getta, magari, le famose galline dalle uova esattamente d'oro, così. Finché sfornano uova, però. Sì, finché poi basta, poi... ce ne sono altre, si cambiano automaticamente. Sono molto veloci. Esattamente. Per fortuna, ecco, io mi reputo fortunato, ho trovato persone che, ecco, credono ancora in un certo discorso, in un certo modo di fare musica, e quindi hanno investito in questo, in questo progetto, e speriamo. Mi dicevi che c'è stato anche un aggancio, cioè, il mix è stato fatto non in Italia, è stato fatto all'estero. No, il mastering è stato fatto all'estero da Tony Cousins, perché abbiamo creduto e crediamo molto in questo lavoro, per portarlo fino in fondo abbiamo voluto coinvolgere Tony Cousins, che è un ingegnere del suono, che sa il suo mestiere, sì, molto, insomma, uno dei più in gamba al mondo. Ha lavorato con Peter Gabriel, con i Massive Attack, anche in Italia ha lavorato, credo, con Gianna Nannini, sì, insomma, cioè gente di assoluto livello, insomma. Sì, persone, insomma, professionisti indiscutibilmente come dire apprezzabili, certo. Quindi, e anche il discorso di portarlo all'estero, di fare il master all'estero, ha anche una dimensione internazionale, che può avere il tuo disco, che può andare oltre la dimensione nazionale. Cosa dici, Ilpran? Sì, io innanzitutto me l'auguro. È vero che è un testo cantato in italiano, sì, cioè un disco cantato in italiano, però ecco, io credo che ci siano dei suoni, delle sonorità, delle prerogative che possono trovare una possibilità d'ascolto anche all'estero. Sì, possono attecchire bene in Inghilterra. Sì, poi ormai, come dire, è talmente, ecco, l'orizzonte è talmente ampio, arriva musica, si sente di tutto e gira di tutto, per cui ecco, tutto è possibile. Però l'importante è che sia cosa che hai fatto te, una costruzione tua personale, sei te autore dei pezzi. Dopo chiaramente ti hanno dato mano gli altri musicisti, certo, avete fatto un lavoro di gruppo, però parto da te l'idea, questo è importante. Sì, sì, i pezzi sono miei, insomma, appunto sono canzoni che ho messo su anche negli anni, tra l'altro. Certo, certo. E poi ne abbiamo scelte alcune, quelle che ci piacevano di più, e in effetti sono anche canzoni che hanno un qualche filo conduttore tra di loro, perché non è un caso che poi l'album si chiami Conseguenze. Sì, no? Appunto. Che si tratta di storie alla fine, che sono narrate però non attraverso, ecco, la descrizione degli eventi, quanto attraverso l'elaborazione personale, ecco, il vissuto, no? Le emozioni connesse a queste storie, e quindi in qualche modo conseguenze, perché certo, poi ahimè ogni vicenda è sempre gravida di conseguenze. Appunto, 22 e 25, le conseguenze sono conseguenze, cioè i pezzi dal vivo, queste sono le conseguenze. Adesso suoniamo qualcosa, con cosa iniziamo lì, Pranzo? Certo, io volevo fare Dentro gli occhi. Perfetto, pezzo bellissimo. Tra l'altro noi della redazione salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Sprisco, abbiamo deciso di inserirlo per un mese nelle nostre programmazioni. Pezzo ottimo, molto bello. Grazie. Ti rubai il tempo che con lui avevi perso già. Questa è la verità. Io mi fermai e non seppi mai se quello che era in te m'avrebbe reso un re. Ma vedi, sai, una promessa ormai era bruciata già in quel tempo senza pietà. Ma vedi, sai, una promessa ormai era negata già in lunghe notti perse nel nulla. No, non è come era un tempo, no, non hai più nessun tempo di correre. Vento perso dentro agli occhi suoi. No, non è come era un tempo, no, non hai più nessun tempo di rincorrere. Il vento perso dentro agli occhi, e abbandonai i tuoi sogni e i tuoi guai, frugando il vano nel cemento di frasi vuote, un pomeriggio finto. Io imparai e senza paura ormai a custodire il mio silenzio, a rifugiarmi nel non senso, ma vedi sai una promessa ormai era bruciata già in quel tempo senza pietà, ma vedi sai una promessa ormai era negata già in lunghe notti perse nel nulla. Non ora è come era un tempo, no, non hai più nessun tempo di correre il vento perso dentro agli occhi suoi. No, non è come era un tempo, no, non hai più nessun tempo di correre il vento perso dentro agli occhi suoi. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Adesso sì, adesso possiamo parlare. Ok, abbiamo sentito il pezzo. Secondo me hai dato una versione bella, anche questa versione unplugged. È un plugged un po' effettato, è molto interessante anche quello. È un pezzo delicato, un pezzo che è molto folk secondo me. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordo. Vedo che ci intendiamo moltissimo. Bene. È un pezzo folk, un folk un po' particolare. Direi una ballata, una no? Una ballata. Diremo una ballata più inglese che italiana, secondo me, ma non c'è niente di negativo, assolutamente. No. Del resto io ho sentito moltissima musica, è vero, i cantautori che amo e ho amato molto, ma ho sentito tantissima musica estera. Sì, ecco. Esattamente. È una ballata molto bella, cantata con un certo trasporto, con un certo pathos. Qualcuno ti ha avvicinato a Mario Castelnuovo e posso essere d'accordo in alcuni momenti. Ti ricordi Sette fili di canapa? Sì. Che era un pezzo... Io ero molto piccolo, sì, insomma, quando Mario Castelnuovo... Io un pochettino più grande di te. Ma, Sette fili di canapa era un pezzo sanremese, ma non era sanremese, era un pezzo molto particolare, aveva delle sonorità decadenti anche in alcuni momenti, poi già come si è presentato davanti al pubblico sanremese ha già dato una scossa e ti hanno avvicinato a loro, penso per qualche momento della voce, può darsi che sia vero, non so se sei d'accordo. Io non conosco moltissimo Mario Castelnuovo, se non ecco nella sua versione più celebre. No? Esattamente. Nel senso, appunto, Sette fili di canapa, esatto. Ma ha fatto delle cose un po' particolari. Ma molte io, cose ecco, approfondirò, perché ecco, questo accostamento mi ha incuriosito molto e considerato che ha avuto poi una carriera abbastanza fugace. Sì, esattamente. Probabilmente era bravo. Era bravo, sai, secondo me è proprio approfondita la cosa. Sono d'accordo con te, e secondo me era proprio un artista indie, cioè era fuori da qualsiasi considerazione o pressione, anche diciamo discografica. Andava avanti per la sua strada, basta. Certo, cioè, io sono convinto, poi ce ne sono tanti. Sì, ce ne sono tanti, chiaramente. Però questo avvicinamento... Io sono perfettamente d'accordo. Riparliamo del pezzo che era molto bello. La versione tua è ancora è molto interessante, quella. Grazie. Che hai fatto in Unplugged. Dal disco è leggermente diversa, ma è giusto che sia così. Certo, l'Unplugged è un'altra cosa. È una versione diversa, anzi io le ho studiate per l'occasione, cercando di reinterpretarle un po', ecco, no? Certo, è vero. Pensare di rifarle nello stesso modo sarebbe stato farle male in qualche modo. Il live non è, deve essere di riprendere i pezzi come sono. No, no. Bisogna ricostruirli, certo, dare un tocco. Chiaramente tu sei da solo stasera, sì, se fossero stati i tuoi colleghi il discorso sarebbe stato ancora un altro. Esattamente, ancora sarebbe stato ancora un altro. Ogni volta può essere diverso, ma anche questo è il bello, insomma. Poi alla fine l'idea è quella di presentare le canzoni, farle conoscere, no? Una canzone è quello che è, insomma. Se funziona, cosa che io mi auguro, funziona un po' in tutte le sue, in tutte le salse. Ma no? Il disco è funzionato in tutte le salse, secondo me. Io l'ho sentito più di una volta e ha funzionato. Beh, mi sono imbattuto, mi sono fermato in questo pezzo perché musicalmente io lo sento più vicino, ma ce ne sono altri che possono interessanti, dice, è un mio giudizio, basta, però i pezzi sono tutti validi. Grazie. E grazie, ti hai messo il tuo modo di variare, di allontanarti da quel terreno importante, fertile, interessante, importante, per cercare altre strade, ed è giusto che sia così. Sì, sì, è, appunto, è sempre divertente. Poi ecco, quando si tratta di una passione, la musica è una passione. Ecco, esattamente. Per me comunque essere qui stasera con voi, ecco, ascoltarci un po' di musica insieme è un'occasione per parlare, per dialogare, migliori, sì, chiacchierarci su. Ed è bello. Non c'è di meglio, ecco. Certo. Volevo chiederti una cosa. Tu hai parlato di costruzione di pezzi, ma come nasce un pezzo scheletricamente? Chitarra e voce solamente oppure? Generalmente sì, nella maggior parte dei casi, nel senso che io spesso sono con la chitarra, insomma, strimpello. A volte avviene quello che io chiamo lo stato di grazia. Cioè? Cioè ci sono dei particolari momenti, come dire, seguiti da particolari stati d'animo, in cui è come se si mettessero in linea tutta una serie di coincidenze. Allora, un tuo stato d'animo, un certo colore del pomeriggio, un certo profumo, una serie di atmosfere che si, come dire, entrano in comunicazione tra di loro, e tu sei lì con la chitarra in mano, suoni tre note, e in quel momento è come se venisse fuori da sé qualcosa, insomma, nasce qualcosa che poi magari una frase, no? Una frase, una specie di ritornello, un inizio, sì, di ritornello. Sì, basta una cosina che piccola. La cosa è il momento più autentico, emotivo, e certo, poi su quello poi si lavora. Ecco. Certo, basta, cioè, una cosina piccola. Questa fase iniziale che ti dà un senso di come dire, dici, questo è giusto, ecco. Sì. Questo motivo è qualcosa che mi dà qualcosa, che comunica, questa frase mi sembra giusta. Allora inizi a credere in questa cosa, e poi lì parte anche un lavoro che, se vuoi, anche un pochino più tecnico, che da questo, sì, punto, sì, di partenza allargare, trovare, sì, gli stimoli, sì, giusti, trovare i momenti, i passaggi, giusti, anche sul testo, poi certo, ci, certo, lavori, insomma, anche sulle parole si tenta sempre nel piccolo, insomma. Io ci tengo a ribadire, così, ecco, per tutti i critici del mondo, che questo è un disco semplice, che vuole essere semplice, quindi c'è una ricerca, però ecco, sono canzoni. Sono canzoni, sono, sì, canzoni, esattamente. Si parla di lavoro, però non si, sì, vuole. No, ma sono canzoni. Non si ambisce ad essere. Però sono canzoni, li hai fatte sentire, quello è importante. Canzoni. A proposito di questo, dobbiamo un momento dare il saluto a tre nostre ragazze rock che ci seguono tutte le sere. Tutti i mercoledì live, anche altre sere, però particolarmente il mercoledì, sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che seguono sempre questi speciali dal vivo che noi facciamo. Cosa dici? Facciamo un altro pezzo dal vivo? A proposito di speciali dal vivo? Va bene, okay, d'accordo. Un dolce fata che appari in un manto di nuvole. Tu splendida e tragica poesia, quanto ti cercai in quelle pallide giornate di vuoto e nostalgia, ma tu eri via, lontana da ogni realtà. Ma tu sei via, lontana da ogni possibilità di sentire questo fragore che sta scuotendo la mia realtà, di annullare questo torpore che vince la mia anima. Dolce fata che appari in un manto di nuvole, tu unica e sola malattia. Quando andai via e lasciai perdere, sai, non fu proprio colpa mia, ma tu eri via, lontana da ogni realtà, ma tu sei via, lontana da ogni possibilità di sentire questo fragore che sta scuotendo la mia realtà, di annullare questo torpore che avvince la mia anima. Forse tu non lo saprai mai, ma quando più non tornerai, quello che resterà con me sarà quel tormento che bruciò i miei anni, i tuoi sorrisi, i miei sogni mal condivisi, la tua sola verità, la mia sola libertà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, stiamo piacevolmente conversando con Liprando, presentando il suo disco da solista, Conseguenze. E quanti pezzi nel cassetto sono nascosti e possono essere tirati fuori, Liprando? Molti. Potrei fare un doppio. Beh, sono per fortuna, è certo. Un buon periodo, perché non è sempre così, però ecco, sulla scia di questo lavoro, dell'entusiasmo, è un periodo molto fertile. Bene, bene. Presentiamo, cioè, diciamo che il titolo del pezzo, che non abbiamo detto. Sì, Il pensiero di te. Il pensiero di te, molto accelerato, mi pare giusto, una ballata pop, possiamo dirla sì, così. Sì, anche questa. Molto accelerata, veloce, volutamente veloce, un po' meno dal disco, leggermente meno a mio parere, però qua l'hai accelerata, giustamente. Sì, vabbè, ho cercato di dare ai pezzi una versione, ecco, una connotazione un po' diversa. Ed è giusto che sia così, un live deve essere così, sì. La connotazione deve essere diversa, perché l'idea del live, io ho sempre questo, cioè quando più di un musicista va sul palco e suona un live, non so se la reazione del pubblico sia buona quando qualche volta si allarga il pezzo, si va oltre, cosa dici? Ma dipende, a tuo parere. Insomma, è un terreno pericoloso. Esattamente. Soprattutto per quegli artisti famosi che hanno brani famosi, allora la gente si aspetta di sentire. Io ricordo un periodo in cui Francesco De Gregori... Sì? Storpiava sistematicamente tutte le sue canzoni, quelle più belle, le più belle, tra l'altro. Per cui uno non so, si aspettava di ascoltare, cioè, ecco, adesso fa, non so, Alice, pezzi di vetro, e lui la ricantava in maniera completamente, ma non so, anche cambiando la melodia. È quello il discorso. ci rimaneva malissimo. È un vezzo che fa Bob Dylan spesso e volentieri. Sì, sì, infatti io credo che sia stato, poi credo che De Gregori un po' sia influenzato. Beh, è sempre stato il Dylan italiano, no? Dai. Ecco, quello è l'immagine sua. Sì, Bob Dylan è anche incredibile, insomma. Per sì, cui. Però non riconosce, riconosce il pezzo solamente dall'ultima frase del ritornello, è un po' difficile per la gente che è venuta là per sentirti. La diventa un po' dura, onestamente, diciamo. Mi diceva un amico mio che ha visto l'altro giorno un concerto, un tributo a Faber, cioè a sì, Fabrizio De André. Grande. Hanno preso la canzone di Marinella e l'hanno fatto in versione jazz e la gente non riusciva più a recepire, a capire dov'era il ritornello della canzone di Marinella. Può essere una scelta, per carità, però un po' difficile, un po' ardua, secondo me. Non so cosa dici. Sì, no, sono d'accordo con te, nel senso che è una sfida sicuramente per chi lo fa. Poi sai, quando ci si confronta con dei mostri, sì, tagli, certo è sempre molto dura. Io credo che delle canzoni siano quasi intoccabili, ecco. Bisogna rivolgersi, non si possono con toccare una certa i mostri sacri. Sacralità, esattamente. Per cui poi se c'è un ritornello che ha una melodia, fluisce in un certo modo, va rispettata quella melodia. Io penso che sia questo, ecco, il lavoro delicato è questo. Ho capito. Quello di sì, rielaborare, ma rispettando, come dire, l'intenzione originale. Sì, esatto, almeno che la gente possa capire, non possa essere un po' sorpresa negativamente, possa capire quello era il pezzo, sì. C'è stata una variazione, giusto che sia così, però non può essere una variazione che cancella praticamente il sì, pezzo. Poi vabbè, può capitare. Poi si fa di tutto, sì, gente chiaro. Che smonta tutto, decostruisce ogni cosa. Vabbè, sono cose che possono capitare al 100%. Benissimo, sono le 22:45, abbiamo ancora tanto tempo per parlare con Liprando. Volevo dirti un'altra cosa, sì. Quindi ho letto nella tua biografia che ami anche il cinema, hai fatto tante cose per il cinema, un po' più vecchie, con la band, anche con la band. Te li puoi spiegare un secondo? Sì, in realtà, insomma, a parte il mio amore sfegatato per il cinema, insomma, anche questo da quando ero ragazzino. Poi con i Bratipos abbiamo lavorato con alcuni registi. Abbiamo lavorato con Giancarlo Mazzaro, che era un giovane regista che ha fatto dei cortometraggi poi distribuiti anche all'estero. Abbiamo curato, insomma, le sue colonne sonore. La cosa più importante che abbiamo fatto in realtà è stata lavorare con Matteo Garrone all'Imbalsamatore, certo. Insomma, con un brano che è inserito nella colonna sonora. Poi siamo stati lì sul set, abbiamo preso parte alle riprese. E come si fa? Dimmi, voi eravate sul set, come si fa fare per un pezzo per un film? Cioè, si vede prima il film o il pezzo si fa prima? Com'è il discorso? O il regista ti dà determinate dritte da fare? In effetti, insomma, quando si tratta di fare musica da film, io credo che sia, ecco, un lavoro ancora a parte, no? Perché lì la musica ha un ruolo importantissimo, no? Come mi disse una volta un mio amico, una buona colonna sonora funziona se tu non ti accorgi che c'è. Ah, ho capito. Però se la tolgono finisce tutto, no? Quello discorso. Cioè, non devi farci caso, non la devi sentire, però se all'improvviso la dovessero azzerare ti sembra che non c'è più pathos, non c'è certo, più niente. Certo. Quindi credo sia veramente poi un mondo a parte, un lavoro a parte. Lo sforzo è quello di creare, ecco, delle seduzioni emotive, delle immagini, qualcosa di evocativo che possa enfatizzare, accompagnare e sostenere l'obiettivo della colonna sonora, sì, essere film, al servizio del film. Esatto. Tu hai citato prima Tarantino, lui è un esperto di colonna sonora, sceglie sempre determinati pezzi, in determinate occasioni, perché i film di Tarantino sono film di Tarantino, cioè assolutamente unici, strani, complessi, contorti, e colonne sonore devono essere così, anche se cita molti pezzi degli anni 60 più di una volta. Sì, vabbè, poi parlando di colonne sonore, insomma, non possiamo non citare il maestro Morricone. Ah, chiaramente quello, per sì. Eccellenza. Lui ha fatto di tutto e di tutto sempre bene. Sì, ecco, lì credo sia uno di quei casi in cui la colonna sonora a un certo punto si staglia davvero oltre, no? Certo. I film, ad esempio i film di Sergio Leone, ma anche tanti altri, probabilmente non sarebbero stati gli stessi senza quella colonna sonora. È vero, io ricordo Mission, la colonna sonora di Mission. Quella è proprio, certo. È proprio propedeutica al film, sì, c'è poco da fare. Fa parte integrante del film. Esattamente. Non è qualcosa che fa, è dentro. È dentro, esattamente, proprio dentro al film. Adesso siamo dentro al concerto di Liprano stasera, 22:48. Io proporrei così, ti riposi un secondo, faccio di un pezzo da disco. Cosa abbiamo scelto, ti ricordi? Mi sembra Dentro gli occhi, mi sembra. Okay. Sì, la versione da disco, che è molto bella lo stesso, che mi ha appassionato notevolmente. Adesso la sentiamo. D'accordo. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Sì, eravamo tanto presi da Dentro gli occhi. Ci siamo dimenticati che Dentro gli occhi avevamo sentito solo dal sì. Questa era domani. Ma beh, lo stesso è una cosa. Il pezzo era domani. Era domani. Che è un'altra ballata. Questa è una ballata pop, un'altra ballata low. Veloce, giustamente veloce. semplice come costruzione, però non, di qua, non, non semplice di qualità, qualità buona chiaramente, e va via, si sente bene. Può essere anche un singolo, anche questo può essere un singolo. Cosa sì, dici? Sì, infatti ci stiamo pensando. Mm. Ecco, quindi ormai sei la quarta persona, che diciamo, lo dice. Un quarto addetto ai lavori che dice così. Beh, ti ringrazio, perché non sono addetto ai lavori, sono un appassionato. Un, però sai, uno speaker è un addetto ai lavori in qualche modo. Per cui vuol dire a questo punto la votiamo. Beh, e la, quindi la ci faremo un non il secondo singolo, perché già è già predisposto, è già predisposto, ma il terzo. Il terzo va bene. Ma il singolo, secondo te, sì, servono ancora i singoli? Ma servono nella misura in cui sono, ecco, sono prodotti con un video, con un lancio sono radio, sopportati da qualcosa. Come dire, sì, quando c'è tutto un lavoro intorno. Che fa sì che poi questi brani possano, ecco, fare da ponte verso le persone. Sì, certo, per poter conoscere l'album, chiaramente. Sì, sì, in realtà è questo lo scopo. Tant'è che appunto abbiamo fatto un video per il primo, ne faremo uno, stiamo lavorando al secondo. E chi, video, chi lo fa, il regista? Del primo chi era? Francesco Palladino. Francesco Palladino. Palladino, e vabbè, con tutta una truppa, insomma, di persone... molto brave. Io sono stato molto contento del lavoro. Non li nomino tutti. No, no, abbiamo nominato regista, quindi accomuniamo tutti quanti. magari nomino gli attori Antonio De Matteo e Lorenza Damiani, ecco, così poi tutti gli altri non si arrabbiano, perché siete troppi, ragazzi, per cui... Beh, se ti hanno sentito stasera via internet, è come fossero stati salutati, ecco, tutti quanti. Benissimo, benissimo. Ok, 22:54, adesso facciamo un pezzo live, dai, cosa hai deciso di fare? Ho deciso di fare Oltre queste mura. Benissimo. Guarda, è notte ormai, oltre queste mura ci siamo noi. Prendi tutto quello che ancora vuoi, quello che ti manca è niente più, niente più, niente più, niente più, niente più, niente più, niente più, niente più, niente più. Niente più, niente più, niente più, niente più, niente più. Guarda, ci siamo ormai. Lascia la paura e niente più, niente più, niente più, niente più, niente più, niente più, niente più. Una mattina di novembre ho capito che yeah. La strada corre oltre noi, le mani ancora tremano, negli occhi il vento che ci aiuta sempre a correre. Oh, che parole tra di noi, vite sospese aspettano. Possiamo andare ancora e non fermarci più. Corri forte, corri più che puoi. Vai, corri forte, corri più che puoi. Vai, corri forte, corri più che puoi. Vai. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, adesso abbiamo sentito questo pezzo. A me interessava il discorso della chitarra che sembrava un basso, volutamente, un pezzo circolare, ipnoticamente, continuamente martellava sulla stessa nota, o presunta tale, volutamente così, per adesso un'atmosfera pseudocupa, leggermente cupa. Cosa dici, Libra? Sì, molto notturno. È molto notturno. Va bene a quest'ora, sono le 23. Sì. Sperando di non averli addormentati. No, assolutamente. Bello lungo il pezzo, sì. Si dipanava, però non era... lentamente si aumentava, progressivamente, sì. Come abbiamo detto, molto circolare, pesantemente circolare, ma bello così secondo me. Grazie, grazie. Sì, in effetti è un pezzo che ha questa intenzione, cioè l'intenzione di come dire, di coinvolgere lentamente, poi parla di una sorta di fuga. Sì, perché dimmi, l'obiettivo è, ecco, il testo in effetti, se ci hai fatto caso, non dice cose molto precise, no? In qualche modo cerca di evocare delle atmosfere, di parlare appunto di una fuga, di una corsa, no? Certo. Verso... E ti hanno mandato un messaggio, sì. Liprando, che dice questo, adesso ho portato. Michele, lascia la paura, un abbraccio a Liprando, libero come la musica. Grazie, grazie mille. Bene, bene. Ogni tanto. È giusto che sia così. Libero come la musica, perché la musica tua è libera, non ha pressioni, è libera, via. Come musicalmente hai composto questi pezzi, musicalmente hai fatto sentire questo brano, come sì. Tu hai detto, leggermente cupo, però ha le sue caratteristiche, deve essere sì, così. Sì, è, appunto. È come... Notturno. Una fuga notturna. Una fuga notturna. Direi che tu ami la musica classica, quindi si sa. Ah, sì, insomma. Vabbè. Certo. 23 e un minuto, siamo arrivati all'ora fatidica dei sì. 5 dischi da portare su un'isola deserta. No, che non è, dire, non è l'isola dei famosi, è l'isola di Rock Wave. Mamma mia, ma te l'avevo detto prima. Lo so, ma insomma. Allora, benissimo, è tutto dal vivo, tutto in diretta, ragazzi. Tutto in diretta con Liprando, stasera vi sta presentando Conseguenze, il suo album da solista, il suo primo, spero ce ne saranno altri sicuramente da potenzialmente solista. Potenzialmente c'è, speriamo che pronto. Si riesca a fare. Ok, vai Liprando. Guarda, è una domanda, anche se me l'avevi detto prima, sveliamo... L'arcano, che lo sapevo già, lo so già da un quarto d'ora. Comunque... Sei stato fortunato, perché potevi saperlo da 5 minuti. Ah, ecco, poteva essere ancora più a bruciapelo. No, perché poi sono talmente tanti. Sì, lo so. So. È una cosa impossibile. Ci provo. Vai. Considerando che magari 5 del momento. Sì, 5 del momento. Variare. Il 5 del momento che senti di più? Che allora, ti io sicuramente ci inserirei The Stooges. Ah, come mai Iggy Pop? Il primo disco... Come mai Iggy Pop? Vabbè, perché credo che il primo disco degli Stooges sia un disco straordinario, unico e irripetibile. Cosa, un manifesto. Cosa ne pensi? Che il camaleonte è ancora in giro? Ma è fantastico. È tacchea. L'ho visto tempo fa dal vivo, ancora tutto l'iguana nudo. Più che mandavo, l'iguana, il serpente. Tutto nudo, con sì, la panza da aveva fuori. Di tutto, aveva di sì, tutto. Tutto che ancora sputacchiava sul pubblico. Fantastico. E cosa ne pensi fantastico. Dell'ultimo disco che ha fatto? Totalmente diverso. Sì, disco. Vabbè, ma gli voglio bene. Ecco, sono... gli si perde, cioè, può fare, ormai può fare un po' tutto, tutto quello che gli pare. Insomma. Però dobbiamo studiare una cosa. Sì. L'ho detto in altre trasmissioni, però posso dirlo anche stasera. Deve sempre ringraziare David Bowie se è ritornato, certo. Dove era, sì, sì. Perché era nel profondo, nel profondissimo. Vabbè, sai che si dice che loro erano molto amici ai sì, tempi, sì. Molto più che amici anche, insomma. Vabbè, erano molto amici. Vabbè, sai, erano tempi particolari. Sì, ma insomma, si sa che David girava un po' di sì, cose. Sì, ma lì si faceva sì, dire, un po' di tutto. Vabbè, bello e cattivo tempo. Sì, per cui. Lui ha salvato Lou Reed e ha salvato Iggy Pop. Certo, beh, cosa positiva. È fantastica la storiella di Iggy Pop, non so se sai che era in aereo per una tournée, e stava pranzando e stava mangiando del pollo. E stava morendo con l'ossicino del pollo. A un certo punto, insomma, sono intervenuto. Per un pelo l'hanno salvato. Stava morendo strozzato con l'ossicino di pollo. Quando è sceso giù, ho detto: guarda, io nella mia vita ho fatto di tutto. Mi sono buttato dai palchi, mi sono mangiato tutte le droghe del che mondo possibile. E stavo morendo. Però non potevo credere di morire con un ossicino di pollo. Incredibile. Se l'è cavata anche quella volta. È stato fortunato, insomma, molto sì, fortunato. Sì. Secondo? Allora, secondo, ci avviciniamo un po'. Il penultimo disco dei Radiohead, In Rainbow. Ah, adesso apriamo una parentesi. Sai che In Rainbow ha fatto un esperimento via web. Sì, sì, molto, sì. Molti dettatori hanno detto che loro potevano suonare i Radiohead. Non abbiamo e bisogno, questo è vero. Non hanno bisogno di promozioni, sono i Radiohead. Anche se il disco... dico è stato mezzo flop, perché molti hanno messo una sterlina, molti hanno messo due sterline, molti hanno messo cinque sterline, ma non è, cioè, insomma, non è stata così importante come si pensava, anche se poi l'etichetta l'ha ristampato, eccetera, eccetera. Sì, sì, poi è stato venduto secondo i canali, sì, i canali normali. Normali. Cosa ne pensi come disco In Rainbow? È un ritorno alle origini, secondo me, io in l'ho alcuni trovato, momenti. Anche se ho letto critiche non ottime di questo disco. Un po' altalenanti. Sì, sì. La prima volta l'ho ascoltato, devo dire, non mi è quasi piaciuto. Ah, ti ha lasciato un po' così? Sì, ho detto bah, no? La risposta, bah. Poi, e l'ho lasciato lì, così, insomma, l'ho mollato. Poi, casualmente, dopo mesi che l'avevo acquistato, me lo sono ritrovato, ho detto bah, ma non sentiamo. Avevo nulla da ascoltare, quindi allora... l'ho rimesso su e ho scoperto che è un disco straordinario. Tom York ha colpito nel segno. Straordinario, perché poi io credo che ci sono alcuni dischi che hanno questa caratteristica, cioè di non essere immediati, e credo che i buoni dischi abbiano quasi tutti questa caratteristica, perché i dischi particolarmente buoni ovviamente non sono, come dire, il pezzo commerciale subito ti prende, ma subito ti stanca. Sì, è vero questo. Cioè lo metti su, lo senti 10.000 volte perché dopo poi lo butti via. Sì, quasi non lo senti più. Invece quello è un disco che io ho scoperto piano piano. Prima ho amato una canzone, poi un'altra. Ed è un po' il manifesto di quello che è la mia idea di musica pop. Ho cioè capito. Musica struggente da morire. Ecco, a me piace quella venatura adolescenziale che Radio e danno nelle melodie, no? Quella... quindi questo per me è un disco manifesto, come lo è quello degli Stooges. Certo. Io sto cercando di individuare questi dischi. Ah, bene, e a proposito dell'ultimo, cosa ne pensi dell'ultimo che hanno fatto? L'ultimo, ecco, l'ho sentito poche volte, ho capito. Però quindi potrei sbagliare, ecco, però l'ho trovato un po' freddo. Qualcuno ha detto che l'ho trovato un po' quasi inascoltabile in alcuni momenti. Solo 8 brani, poco, mi è sembrato molto, non vorrei dirlo perché io adoro i Radiohead, molto il disco che sa da fare, perché c'è il contrattino. Ah, può darsi, ma secondo qualcuno, e anche posso essere solo concorde con questo, è un altro disco di Tom York da solista, qualcuno ha detto anche questo. Sì, ma è molto concentrato su di lui, alcuni pezzi sono assolutamente ostici. Sì, molto ostici, esatto. Ce n'è uno bellissimo. Ce n'è uno molto, molto bello, molto bello, ma gli altri sono che credo molto... sia poi il singolo, sì, credo. Ma è molto bello quello, però gli altri sono però molto ostici. Sì. Non mi ha preso, cioè non ci sono le canzoni. Ecco. Allora io capisco la sperimentazione, sì, esatto. Capisco l'aspetto colto, ma io sono sempre un po' cafone. Ho capito. Io voglio sentire la canzone. Okay. Allora a me in Rainbow piace perché è un album di canzoni. Certo, certo, ho capito. Sarò pop, non so. È un album di canzoni. Sparate sul pianista, che vi devo dire? Sparatemi, sarò pop, ma è così. Okay. Numero 3. Queens of the Stone Age. Ah, però Songs for the Deaf. Bene, quello non vai. L'ultimo, no, quello lì con Dave Grohl alla batteria. È uno che sa suonare, lo fa anche con i Foo Fighters, ma sì, un'altra parte di quando c'è lui e la batteria cambia tutto. Sì, non si sa perché quando Dave Grohl suona con qualcuno cambia tutto. Sì, pare, so. Insomma, è uno che pesta sì, molto. Sì. È una specie di miracolo vivente praticamente. Bene, Songs for the Deaf, perché anche lì credo quello sia un, come dire, un manifesto. Sì, sì, un bel hanno disco. Fatto quel disco, hanno messo il punto, hanno detto ok, la musica stoner, la musica rock, ecco qua. Sono tante questo. Teste parlanti molto importanti. Lì c'è Steve Buscemi, Steve Buscemi, scusate, vabbè, non ricordo, Josh Homme, esatto, Steve Buscemi è l'attore, sì, esatto. Di Tarantino. Josh Homme, poi c'è... Mark Lanegan, che stava negli Screaming Trees con la sua voce cupa, nera, sì, non nera perché blu, cioè, di un super gruppo, e quello è un super disco. Quello è un super disco. Mark Lanegan è un personaggio che a me piace particolarmente quel duetto che ha fatto con la cantante, con la folk PJ Harvey, no, la cantante folk americana, no, inglese era. Beh, ha fatto 2-3 dischi con lei, molto folk, però la voce di Mark Lanegan si riconosce in ogni caso. Sì. Qualsiasi pezzo lui faccia è sempre la voce di Mark Lanegan. Poi Songs for the Deaf veramente lo consiglio perché anche lì ci sono le canzoni. Sì. Cioè lì ci sono dei pezzi che sono arrangiati in maniera incredibile, con dei suoni incredibili, secondo il genere. Però credo che si tratta di canzoni che potrebbero essere suonate in qualunque altro modo, sarebbero belle lo stesso. Certo, con i pezzi da 90 che vi suonano, quindi siamo ok. Quarto disco? Ecco, qui comincio a essere in difficoltà, perché insomma sono tanti. Lo so che sono tanti, però insomma. Cerchiamo di stringere. The Doors. Quale, il numero uno? Sarà un po' banalotto, ma come si fa a non annoverare The Doors? Visto che adesso sono stati rimessi nel giro, nell'ordine delle cose. Anche perché i Doors avevano una caratteristica particolare. Sì. Questo poi me l'ha detto anche il mio produttore, Claudio Bartolucci, sì. Che è uno che l'ha visti suonare dal vivo. E lui ha visto un po' tutti, insomma, ha visto i Doors, ha visto tutti i gruppi dell'epoca, insomma, Hendrix, tutti i grandi, no? I Who, mamma mia. Però mi ha detto, quando ho visto i Doors, avevi proprio la sensazione che erano qualcos'altro. Totalmente diversi dagli altri. Sì, erano come dei marziani. Ho capito. Insomma, erano proprio... incredibili. Sì, diversi. E venivi fuori dall'esperienza del concerto dei Doors come insomma qualcosa di irripetibile. Ci credo. Beh, Jim Morrison penso sia un personaggio irrepetibile. Sì. Un modo di presentarsi unico. Sì. Ce ne sono altri. Un ragazzo, no? Poi alla fine giovanissimo. Però. Ecco, lo stato di grazia. Sì. Si è creato qualcosa intorno a quei quattro, sì, con lui, la musica. Poi c'era effettivamente qualcosa di estremamente innovativo, no? Sì, questo modo di suonare l'Hammond senza basso, era molto diverso. Poi c'era lui che trainava tutti. Lui che era proprio un animale da palcoscenico al 100%. Sì, incredibile. Ok, e quinto, che non è il quinto in ordine di bellezza, ma quinto perché ordine basta. Sì, è chiaro, ma, ripeto, non ci sarebbe da dire Beatles, Stones, come dire, è inutile citarli, no? Certo, sono troppi, sono indeciso, un sesto non me lo concedi. Dai, facciamo 5-6, dai. Diciamo il quinto... La buona novella di Fabrizio De André. Ecco, io sono molto contento che tu abbia citato La buona novella di De André, perché La buona novella, a mio parere, sempre a mio parere, è il miglior disco di Fabrizio. Anche secondo me. Che bello tutto. Anche secondo me. Una tematica molto difficile, importante, fondamentale, ma bello, bellissimo. Sono convinto anch'io che sia il più bello. Io, sì, è quello che amo di più. anche per me. Poi i temi sono talmente profondi, sì, esattamente, talmente come dire, totali, universali, che veramente siamo di fronte a un capolavoro assoluto. Insomma, di musica e di poesia. Uno stato di grazia incredibile. Sì, proprio canzoni, in quel momento là ha superato se stesso. Sì, Tre Madri ad esempio. Ah, è un modo di mettere in gioco i sentimenti umani, la vicenda umana, attraverso questa esperienza di un uomo, tra virgolette, divino, che guarda, credo sia davvero, vabbè, forse anche diventa anche superfluo spendere troppe parole. Certo. Perfetto, un album perfetto, primo all'ultimo, all'ultimo solco. Infatti ogni tanto me le canto quelle canzoni, è bello. Me le suono, me le canto nella mia, nell'intimità, diciamo, del mio studio. Mi piace molto suonare le canzoni di quell'album. Recentemente, a proposito della Buona Novella, la PFM ha rifatto la Buona Novella. Sì, che poi loro hanno lavorato, no? Certo, con De André, sì. Hanno rifatto a modo PFM, chiaramente. Certo. Hanno ripreso. È difficile, secondo me, riprendere un tale capolavoro, però sì, l'hanno fatto abbastanza bene, diciamo bene. Quella, guardati, adesso siamo qui, siamo talmente, come dire, in un clima talmente amichevole e disteso, che ti farò una confessione. Dimmi. A me è una mia ambizione segreta, quella lì, di provare a lavorare sulla Buona Novella. E io lo farei molto in modo molto minimale. Cioè, io lo farei veramente dando spazio proprio alla voce, alla poesia e a un minimo, Di musica, un minimo di suono. Beh, però, ci puoi provare. Ci proverò. Per ora me lo faccio, come dire, lo faccio nell'intimità del mio studio. Però, non ho ancora il coraggio di confrontarmi con la grandezza. Però se l'idea continua a girare intorno, come vediamo, diceva una canzone molti anni fa, può darsi. Sesto, che te lo diamo, un sesto, dai. Bene. Il sesto è un disco dei... aspetta, mi sfugge. Gruppo newyorkese. Misery is a Butterfly si chiama il disco, se non sbaglio il titolo. E loro sono i Blonde Redhead. Ah, un disco, un gruppo un po' particolare. Molto di nicchia. Molto di nicchia, sì. Molto, certo, di nicchia. Molto di nicchia. Però anche quello, secondo me, è un capolavoro. Un capolavoro. È particolare anche nelle sonorità, decisamente. Sì, c'è un lavoro incredibile in quel disco. Credo che sia... Adesso da poco ne è uscito il loro disco nuovo, che è anche molto bello, ma quello credo che sia davvero un capolavoro. Ve lo consiglio a tutti gli ascoltatori, perché è davvero molto struggente, molto intenso, grandissimi suoni. C'è tutto in quel disco. C'è Gainsbourg, certo. Ci sono le colonne sonore dei film italiani degli anni 60. C'è una ricerca molto, molto interessante. A New York si è sempre ispirato un'aria particolare, sì, mentre nella West Coast si ispirava l'aria solare, nella East, certo, Coast si ispirava un'altra aria, Velvet permettendo, chiaramente. Partiamo sempre da loro. Ma ho dimenticato il settimo, settimo. Il disco della banana. Vabbè, ormai è troppo tardi. Velvet permettendo. Grande Andy Warhol, il grande Lou Reed e tutti gli altri, sono stati grandi tutti. Certo. Con i Velvet abbiamo aperto una strada per tantissima gente. No, ma non voglio infrangere le regole del vostro show, quindi mi attengo, ma non si finirebbe mai. Esatto, non si finirebbe. 23... Cioè, saremmo qui a tirare dischi fuori, certo, dischi in continuazione. Però abbiamo, dai, i primi che sono... Abbiamo citato delle cose che hanno fatto storia. 23:16:03, facciamo un altro pezzo del disco, è l'ultimo che abbiamo in scaletta, mi pare, e poi vediamo. D'accordo. Ti ricordi che il pezzo era? Guarda, non vorrei sbagliare, ma credo che sia Scivola Via. Ok, lo sentiamo. Vediamo. Non sembra vero, ma potrei giocarmi il mondo intero e poi lasciare il resto ai vecchi eroi. Non sembra sano, ma vorrei muovere un passo in fondo e poi aspettare il sonno, il sonno. Scivola via. Tutta l'energia scivola via. soltanto un lungo sonno e poi nuove comete santi dei a disegnare il tempo. Sembra a posto e non lo è, la terra è tonda anche se è tutta un'invenzione. Un'invenzione e l'energia scivola via. Tutta l'energia scivola via. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Adesso so di cosa facciamo. Diciamo un po' le notizie di servizio. Innanzitutto l'etichetta. Allora, l'etichetta è Delta Top. Ed è un'etichetta romana. Certo, che ti ha dato, praticamente ha distribuito. Sì, è il mio produttore. Il tuo produttore, praticamente. Nella persona di Claudio Bartolucci, che perfetto, è il presidente dell'etichetta, che è, insomma, un'etichetta romana che si dà da fare, insomma, produce tante cose interessanti, tra il cantautorale e anche, insomma, come dire, un po' crossover, sì. Ci sono anche produzioni d'altra natura, certo, anche jazzistiche, mi sì, pare. Sì, jazzistiche, cose sempre piuttosto ricercate, di un certo livello, sì, molto raffinate, insomma, ed è un, come dire, ma non perché mi abbiano prodotto, no, sembrerebbe, come dire, una sviolinata, esatto, ma è realmente, insomma, è una, si tratta di una realtà produttiva molto interessante, certo, nello scenario attuale in Italia, perché fatta da persone che hanno ancora passione e ancora credono in un certo modo di fare musica. E questo è importante, fondamentale. Sì, il tuo sito, il Prando? Il distributore, esatto. È Self. Perfetto, il distributore molto grande. Che comunque, insomma, ci tengo a segnalarlo perché, tra l'altro, per chi fosse interessato, il disco, oltre che nei negozi di dischi, può essere anche ordinato direttamente dal distributore. Certo, quindi fisicamente si può trovare nei negozi? Sì, no? Sì, si trova nei negozi, può essere trovato o ordinato presso i negozi, o in ogni caso può anche dalla Feltrinelli, certo. Track, dove vi pare. Certo. Però se siete, diciamo, di quei discofili che amano ricevere il pacchettino a casa, come io sono, quindi potete ordinare anche il disco direttamente al distributore a www.self.it. Perfetto. E vi manderà tutto confezionato ottimamente presso i vostri appartamenti. Esattamente. Ricitiamo un momento il tuo sito. Il mio sito invece è www.liprando.it. Perfetto. E dal sito è possibile trovare poi i link con tutte le pagine, insomma, quindi la pagina di Facebook, la pagina MySpace e YouTube, insomma, da lì abbiamo tutti i riferimenti per arrivare dappertutto. E Michele, insomma, mi porta un altro messaggio, sono un po' orbo, però vedo se ci vedo. Liprando, sul personale, ma per chi pulsano queste vene, bravissimo, ci piaci tanto. Grazie. Grazie Michele. C'è un altro, aspettiamo. Sì, le vene. Le vene pulsano. Il pezzo di prima, Scivola via, è un pezzo un po' particolare, un po' strano, nel senso che parla di della realtà in cui viviamo, che è una realtà che abbiamo costruito noi. Certo. Quindi in qualche modo ci vuol dire, tutto quello che c'è intorno ci sembra esistere, ma esiste perché noi esistiamo. Quindi in realtà nulla esiste se non in relazione a noi che guardiamo le cose che stanno intorno a noi. Questo è un po' il senso. E alla fine il pezzo dice, sai, le vene che pulsano sono le nostre vene, ma le vene del mondo, le vene della terra, e l'energia scivola via, e quindi, insomma, finché siamo vivi, esistiamo noi, esiste il mondo, e vediamo e proviamo. Certo. E un altro messaggio, adesso eccolo qua. Una voce decisamente interessante ed ottimo sound, complimenti. A Liprando, una piacevole scoperta. Grazie. Grazie a Michele, si sta portando tutti i messaggi. Grazie. Quindi vedi, le cose si stanno muovendo in senso positivo, contento, e la gente ascolta e ama determinate sonorità. Come tu giustamente hai detto, c'è un altro. Grande Liprando, i tuoi amici Veneti, tutti e Candy. Grazie, mille, grazie. Bene. No, vi ringrazio tutti, ragazzi, che dire, sono felicissimo di questi vostri messaggi. Spero, del resto, se uno fa questo, se si fa questo, si fa per le persone, per comunicare, insomma. Il mio bisogno iniziale, quando ho pensato di fare musica, comunque di scrivere canzoni, è per avere un canale d'espressione. Quindi raggiungere la gente è sempre il massimo. È il massimo, proprio il giusto concetto per far musica, certo. Il giusto progetto deve essere quello indirizzato a raggiungere la gente, è fondamentale. Adesso raggiungiamo la gente suonando, cosa dici? Okay. Che cosa ci fai ascoltare? Ti faccio ascoltare un brano che abbiamo già ascoltato, sì, però nella versione, diciamo, da studio. Benissimo. Che è Domani. Ok. Domani non lo so quante volte ancora. Domani proverò a respirare ancora l'aria che c'è intorno ai nostri corpi e a me e a te, finché sarà domani, mai, oh mai, io mi fermerò, oh mai, mi rassegnerò domani. Io ci sarò. Mm-hmm. domani non lo so. Quante volte ancora domani proverò a rimanere ancora accanto a te, cercando inutilmente un perché che mi console ancora. Mai, oh mai, io ci crederò, oh mai, oh mai, io ci proverò domani. Non ci sarò. Forse sì, o forse no. Forse sì, o forse no. Forse sì, o forse no. Forse sì, o forse no. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, a me è piaciuto molto l'effetto iniziale che ha dato la chitarra. Sembrava, non è hendrixiano, ma poteva essere anche hendrixiano. Era una chitarra acustica, ragazzi, non elettrica. E poi una cosa che i nostri ascoltatori che sono collegati con il video possono vedere: tu giochi giustamente fra due microfoni, giochi. Sì. Musichi fra due microfoni, mi è consentita l'espressione, sì, sì, sì. Che una ha una sonorità, un'altra ne è un'altra. È così, vero? Ripeto? Sì, sì, uno ha insomma nulla di nuovo. Ci manda un altro messaggio, arriva adesso. Sì, grazie. Nulla di nuovo, nel senso che già è stato fatto, insomma, lo fanno in tanti, però ecco, è stato un modo, è un modo per me congeniale questo qui per trovare, ecco, uno spazio diverso. Di per utilizzare la voce, ecco, per utilizzarla un po' più come uno strumento in qualche modo. C'è il tuo cartellone. Sì. C'è un altro messaggio per te, che è questo, una domanda: dentro questi brani pieni di passione ed amore si nasconde una musica ispiratrice, punto di domanda? Una musa, pardon, ispiratrice, ho letto male. No, non esiste. Non c'è un riferimento unico. Esiste una persona a me cara, che è la persona che mi sostiene in tutto, insomma. Tuo punto di riferimento. Sì, sì, sì, che è Fausta, la mia compagna con cui, insomma, condivido la dimensione creativa, il mio lavoro, però, ecco, i brani parlano di tante cose, di tante vicende, e quindi c'è, come dire, non c'è un'unica persona a cui si rivolgo. Poi un altro che questo... Grande Liprando, eccoci qua, Tiziana e Candido. Grazie. Bene. Grazie mille. Stanno arrivando i messaggi, sono, vedi? Sono contento, sono molto contento. Ritornando un momento al pezzo che hai fatto dal vivo, sì. Queste sonorità, questa chitarra lisergica, posso dire lisergica? Sì. È molto interessante. Sì, anche un po' Pink Floydiana. È Floydiana, no? Sì, è Floydiana. Sì, abbiamo Floyd, non abbiamo citati, ma sono nel girano intorno per ricitare il discorso di prima. Ecco, c'è un altro, aspetta che lo leggo immediatamente. Liprando, grande passione in parole e in musica. Ogni canzone una donna o una sola donna dietro ogni canzone? Ecco, di nuovo, ce ne siamo. Ci siamo. E qui ricasca l'asino. Guarda, me la voglio cavare come fece De Gregori in una intervista che ho sentito tempo fa. Meglio non dire. Ecco, perfetto. Meglio non dire. Ognuno può immaginare come vuole. Anche perché, no, questa è vera questa cosa, a parte le battute. Mi ricordo questa intervista a De Gregori in cui gli chiedevano, ma la canzone Pezzi di vetro, che è una canzone secondo me tra l'altro bellissima. Molto bella, sì. Che cosa c'è dietro? E lui racconta, no, un giorno ero con la mia fidanzata, c'era uno che faceva il giocoliere, era un periodo che stavamo litigando molto io e lei, Quindi lei guardava questo tipo che era un tipo figo e io fui geloso e poi andai a casa e scrisse: mamma mia, come mi hai smontato tutta l'atmosfera. Avevo immaginato cose incredibili, invece, l'uomo che cammina sui pezzi di vetro, no? Invece era una vendetta, praticamente. Invece tutto sommato poi era una storia di vita quotidiana, ma poi in realtà questo è il bello. De Gregori ha anche fatto delle cose bellissime, sì. No? Di chi ha qualcosa, insomma, di chi, dei veri poeti, non come, cioè, me, insomma, quelli veri, che hanno, riescono poi a tradurre, sai, in cose anche di tutti i giorni, che possono essere cose che sembrano banali, ma in realtà nascondono qualcosa di molto bello, intenso, no? Del resto la bellezza non sta nelle cose, sta nel nostro sguardo, quando noi riusciamo a vederla e a farla vedere agli altri, ecco, diventa tale. A proposito della tua compagna, quando scrivi pezzi, li fai sentire anche la tua compagna? Sì, sì, molto spesso. Anche lei ti dà un giudizio, insomma. Sì, sì, certo, molto critico anche. Beh, questo è positivo, secondo sì, me. Sì, sì. È un filtro, certo, importante. È una persona con cui, ecco, che mi dà un po' il senso immediato della, di quello che può essere, come posso dire, il modo in cui arriva il messaggio. Certo, no? Certo. Anche perché appunto lei non... appunto non si occupa di musica, quindi è ancora meglio, è meglio, no? Meglio quel discorso. Perché mi dà una sensazione immediata, no? Legata all'emozione, alla sensazione del momento. A me poi, sempre tornando al discorso di qui sopra, no? Di questa di dimensione pop, che io apprezzo molto, a me interessa in particolare che, ecco, che arrivi un'atmosfera, che arrivi una sensazione, più che ci sia poi, come dire, un commento dotto che coglie l'aspetto tecnico. Insomma, per carità, anche quello è importante, fa piacere quando c'è qualcuno che, insomma, ne capisce, che coglie magari una finezza, l'apprezza. Però ecco, io sono uno di quelli che ama le persone, ama arrivare alle persone. Insomma. Prima poi, bisogna arrivare alle persone, poi... Poi l'espertone, sì, per carità, alziamo le mani. Sì, però... Cioè, quindi possiamo dire che questo tuo disco è un disco tendenzialmente pop, tendenzialmente, sì. Possiamo dire questo, tendenzialmente. Non pop, tendenzialmente. Ha un'ambizione pop. Ecco, una cosa meglio ancora, ha un'ambizione pop. Nel senso che vuole essere pop in opposizione a un'idea di musica a tutti i costi alta o sofisticata, ecco. Si propone come qualcosa che vuole essere semplice, vuole parlare in modo semplice, poi... Magari non ci riesce sempre. Ma però ci riesce sicuramente, questi sono i messaggi, quindi la gente ha recepito, noi chiaramente sì, perché stasera sei qua, ma ha recepito il discorso e continua a recepirlo, quindi è positivo secondo me. E vorrei chiedere un'altra cosa e poi facciamo un altro pezzo live. Sì. Discorso dal vivo, tu avevi detto che c'è la band con cui ti accompagni, domani come lo fai dal vivo? Domani lo facciamo molto, in maniera molto fedele al disco. Il live sostanzialmente è molto fedele al disco. Ho capito. Molto fedele. Per quel concetto che abbiamo parlato prima. Sì, è molto fedele al disco, con ovviamente un lavoro un po' diverso sugli arrangiamenti, nel senso è un pochino più elettroacustico. Rispetto al disco, dove ci sono anche poi dei lavori con delle macchine, con dei suoni, certo. Lì è una formazione più rock. Ma l'effetto esiste anche nel live, sicuramente. Sì, sì, sì, anche sulla voce c'è questo lavoro. C'è questo lavoro particolare. Sì, sì. Ed è un set molto rock, quello dal vivo. Vabbè. Pur mantenendo questa dimensione, come dire, sì. Non particolarmente hard, dura. Dura. Però l'effetto rock esiste. Sì, sì, per la formazione, ecco, dal vivo sono basso, due chitarre elettriche. Tutti e due elettriche. Più la mia chitarra, quindi la mia chitarra classica o acustica. E basso e batteria. Ah, batteria c'è. E poi ci sono i cori. Sì. Batteria dà... Che dimensione dà la batteria? Il disco si sentiva, eccetera. Che dimensione dà? Una dimensione preponderante, una dimensione... che sta nell'assieme delle cose. No, è abbastanza importante, ecco, perché poi i pezzi spingono comunque, no, ritmicamente hanno bisogno e c'è, è presente, insomma, però ecco, suonata con grande mi viene da dire con grande disciplina. Ah, ho capito, il batterista Andy Bartolucci, insomma, che bravo, bravo. È un maestro bravissimo, molto preciso, si può dire il più preciso di tutti, sta lì sempre in cuffia col suo click, insomma non sgarra mai, ci tiene tutti. E mi diceva un musicista, adesso lo chiedo da musicista, che lui aveva molta difficoltà a suonare i pezzi pop, mentre era molto più facile suonare un pezzo rock. È così secondo te? Ma i pezzi pop, proprio perché sono pezzi pop, quindi che non, perché bisogna seguire, no? Determinati schemi, criteri, non andare fuori. Certo. Invece sui pezzi rock si può anche andare fuori. Vabbè, ma i pezzi rock hanno poi, ci sono altre cose su cui dico la mia, poi sì, magari. Certo. Il rock ti aiuta per certi versi perché ti puoi nascondere dietro una forte cassa, dietro un potente distorsore. Puoi insomma, operare così, cioè poi... Mi ricordo anch'io quando ero piccolino, tredicenne, la mia prima chitarra elettrica, non sapevo quasi suonare. Però facevi rumore. Male, però mettevo il mio distorsore a palla, bello, suonavo, facevo un casino tremendo, ero convinto. Insomma, mi sembrava che... Poi dopo ho capito che in realtà quello lo puoi fare... Alla fine, cioè prima devi fare altro e poi puoi cominciare a fare casino, però l'ho capito dopo. Però ecco, in effetti il pop è più pulito, no? È più cristallino e poi c'è anche probabilmente un'altra difficoltà che proprio perché si tratta di musica pop e quindi popolare deve essere semplice. Ecco, quello è importante. E fare musica semplice che sia però poi... unica, bella, irripetibile, forse la cosa più difficile, Del mondo, che esista, no? E in questo non si può che citare i Beatles, certo, quelli che hanno fatto, no? La che storia hanno messo di insieme tutto, tutto, hanno messo insieme delle canzoncine che sembrano, no? Semplici, eppure, ma assolutamente uniche nelle melodie, certo. Irripetibili, no? E poi e lì hanno... è quando c'è proprio, sì, metti d'accordo tutti, no? Pubblico, critica, Lennon, McCartney, Dorchett, sì, lì, non... lì non c'è niente da dire, non c'è niente da dire. Suoniamo ancora 23 e 40 quasi, ci siamo, non abbiamo ancora finito, abbiamo circa 20 minuti, ma suoniamo adesso. Cosa? Fantasmi neri. Benissimo. Se ripenserai ai giorni tuoi vissuti senza direzione, se ripenserai agli occhi suoi cercando una spiegazione, non la troverai mai, non la troverai mai. Se ripenserai ai giorni in cui toccavi i sogni con le mani, forse scoprirai che quel sorriso e quel profumo sono ormai fantasmi neri che ormai si agitano i suoi capelli tra le mani, le promesse di domani, stiamo vicini io e te e non ci avranno mai. Poi la paura di cadere, c'è troppa nebbia, troppo rumore, manca l'aria ed il coraggio, io mi fermo qua, ti lascio qua. Non ti domandare, non pensare, non guardare alle tue spalle, gli occhi disperati di bambina in cui la vita si infrangeva, non li rivedrai mai. sciolta in rancore troppe volte, hai bevuto anche tu ed ora non lo sai. Gettala pure se lo vuoi, la mia corona stinta ormai, la rabbia uccide l'anima, ma tu continuerai, non capirai. Mai, tu non capirai, mai, tu non capirai. Gli occhi disperati di bambina che cui perdevi la memoria e la tua vita si frange. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Sì, giustamente Riprando si sta dissetando dal vivo, come si fa nelle trasmissioni di un certo tipo. Ciao, è arrivato anche un amico e c'è anche Roberto Baldi in regia che collabora anche lui alla sistemazione delle telecamere, all'invenzione delle telecamere, grazie a Roberto, dobbiamo sempre ringraziarlo di questo. Pezzo molto bello anche questo, molto grazie. Con quell'effetto un po' particolare, tecnicamente come si chiama questo effetto con la voce? Allora, questo è un delay. Delay, miscelato con un dynamic filter che è una sorta di filtro, insomma un equalizzatore che dà... Dà un certo fascino, secondo me. Fascino da questo calore, anche però un po' analogico, sì. Un po' sporco, no? C'è un po' sporco, esattamente. C'è il fascino del lontano, sì. Che non si capisce bene, non dal punto di vista musicale, cioè del tenebroso, possiamo dire così, dai, se mi è consentito. Sì, è vero, è vero. Una cosa volevo chiederti, è una domanda che facciamo spesso anche a altre band. Hai avuto difficoltà a trovare... da suonare cose tue in giro oppure no? Secondo te? Insomma, non è facile. Non è facile. Non è facile. Diciamo, io anche in questo probabilmente sono abbastanza fortunato perché... Cioè l'etichetta ti dà una mano. Essendo sostenuto dall'etichetta, essendo sostenuto dal distributore, insomma c'è un lavoro d'equipe, c'è una produzione in qualche modo che spinge, c'è un ufficio stampa significativo, sì. No, c'è una pubblicità, come certo. Dire, c'è tutta una macchina, una macchina che si mette in moto, che consente tante cose, tra cui anche questa, no? Certo, soprattutto questa di stasera. Sì, diciamo. Anche quella è una cosa importante. Ecco, però senza questo, ecco, quando si stava è tardi, no? Quindi si può usare un'espressione un po' a chiappe scoperte. Ecco. Quando si stava a chiappe scoperte è molto dura, nel senso che... Quando eri solo praticamente, o sì, quasi. Perché poi, diciamo, i locali dove si fa musica dal vivo ci sono, però, insomma, è molto difficile trovare delle regioni intermedie. No, ho capito. O c'è il locale molto figo che fa solo certi nomi, e segue solo certi artisti, oppure c'è la bettolaccia dove tu vai lì a suonare con quello che mangia il panino e ti guarda con l'aria diciamo mezza addormentata, il panino tra i denti, insomma. ma c'è capitato di tutto, sì, certo. In questi anni si è suonato davvero ovunque, ma si è suonato, vedi, Riprando sempre, però sempre è quello importante. E questo conta, noi suoneremo finché la forza, diciamo, ci sostiene, si andrà avanti. Sì, è giusto che sia così. Suonare è fondamentale, importante, è imprescindibile. Ogni artista che fa un disco, la cosa più bella è presentarlo davanti al pubblico. Sì, c'è poco da fare. Sì, no, che sia 100, 1000, 2000, non importa, presentarlo davanti al pubblico. Sì, la cosa è quello per cui si lavora, insomma. Certo. È il momento finale, no? È tutto. Tutte le fasi del processo, devo dire, sono molto entusiasmanti e interessanti. Anche il lavoro, diciamo, compositivo, poi il lavoro in studio, è un lavoro affascinante, entusiasmante. Però certo, il fascino del suonare dal vivo, di comunicare con le persone, alla fine lo si fa per quello. Certo, certo. Adesso sono le 23:47, adesso facciamo sentire il pezzo che abbiamo particolarmente io e te, dentro gli occhi. Mentre il pezzo andava, mentre pensavo a questo, gli occhi hanno sempre fatto scrivere delle cose meravigliose ai grandi musicisti, In Your Eyes di Elton John, per esempio. Certo. Pezzo meraviglioso. Gli occhi hanno sempre suscitato delle ballate importanti. Vedi caso la tua, insomma. Vabbè, sai, gli occhi sono un po' tutto, no? Esattamente. Sono l'unico canale che c'è per guardare una persona. Esatto. La puoi guardare ovunque, ma se non la guardi negli occhi non l'hai mai vista. È vero. E gli occhi sono anche l'unico modo per dire qualcosa a qualcuno, insomma. Esattamente. Alla fine sono quelli che ci tradiscono, sono quelli che ci aiutano a farci capire. Certo, non serve parlare, gli occhi danno, già con gli occhi, come fissando dire? Una persona, sì, già capisci sì, com'è la persona. Sono un po' tutto. Certo, insomma. Certo. Pezzo molto bello, lo sentiamo e poi faremo la fine con il live, naturalmente. Sì, adesso mettiamo la traccia numero 3, pezzo, ripeto, bello perché ci è entusiasmato immediatamente quando l'abbiamo sentito e quindi lo riproponiamo ancora una volta perché è giusto riproporlo e lo riproporremo sempre quando possiamo, ok? Io ti rubai il tempo che con lui avevi perso già, questa è la verità. Io mi fermai e non seppi mai se quello che era in te m'avrebbe reso un re. Ma vedi, sai, una promessa ormai era bruciata già in quel tempo senza pietà. Ma vedi, sai, una promessa ormai era negata già in lunghe notti perse nel nulla. No, non è come era un tempo. No, non è più nessun tempo di rincorrere il vento perso dentro agli occhi suoi. Sogni e i tuoi guai, frugando in vano nel cemento di frasi vuote un pomeriggio finto. Io imparai senza paura ormai a custodire il mio silenzio, a rifugiarmi nel non senso. Vedi, sai, una promessa ormai era bruciata già. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, abbiamo quasi concluso questa nostra cavalcata. Abbiamo sentito il pezzo che la redazione ha amato molto, per un mese è andato giù consecutivamente quasi tutti i giorni. E questo finale, che da ballata pop, da ballata, non ballata pop, da ballata, poi cresce, cresce. Un altro messaggio, Michele stasera fa il messaggio, porti i messaggi. Eh sì, facciamo via le telecamere, facciamo anche il poster di prato, così la gente vede. Allora, il messaggio è questo, è scritto così: ci hai regalato grandi emozioni, qual è la più grande della tua vita? Punto di domanda. Ti fa un sacco di domande stasera i nostri ascoltatori. Questa è difficile da dire. Non so, in realtà ce n'è una in particolare, però voglio astenermi. Mi astengo. È un tuo segreto, insomma. Mi astengo, sì, sì. Benissimo. Ok. 23:55 quasi, e adesso dobbiamo concludere. Purtroppo, sai, le cose si concludono. Le cose belle hanno, ma è già passato, è passato, insomma, quasi due ore. Sì, così velocemente. Davvero non me ne sono accorto. Vuol dire che ci siamo divertiti. Sì, sicuramente ci siamo divertiti. Questo conseguenza del nuovo disco di Liprando da solista, come cantante solista. Ha già pronto un nuovo disco, però abbiamo ancora nel cassetto. Verrà fuori a tempo debito. Le canzoni sono già pronte, quelle nuove. Né una prossima, nelle future tournée che farai, farai sentire anche quelle canzoni nuove che hai nel cassetto oppure no? Probabilmente un paio sì. Un paio sì. Ora ci sto ancora lavorando, le sto arrangiando, insomma. Però c'è questa possibilità. Sì, sì, sì. Bene, prossimamente ti vedremo allora in qualche posto. Ora stiamo organizzando la tournée, insomma, appena le date saranno pronte, saranno sul sito. E quindi ritroviamo nel sito, vedremo tutto quanto. Sì. Qualche giretto dalle nostre parti. Assolutamente darsi. Sì. Lavoreremo per essere qui. Bene, ci siamo già messi d'accordo io e Liprando per il nuovo disco. Ok. Bisogna sempre siamo a posto. Anticipare le cose. Con cosa terminiamo, Liprando? Con l'ultima estate. Benissimo, grazie a Michele Tosoni in regia, grazie a Roberto Baldi che ha dato una mano alle telecamere. Domani sera ci sarà Agostino con Amelie, una cantautrice che viene da Milano. Ok, grazie a tutti, buonanotte. Buonasera, Liprando. Grazie, buonanotte grazie a te, grazie a tutti, grazie. L'ultima estate soffiava un vento caldo e le mani bagnate sfioravano la speranza che in una estate i sogni e le occasioni ormai perdute potessero ritornare in un sogno d'estate. Ormai perduto in ore sbagliate, lasciate correre senza un pensiero, né una parola che spiegasse il mistero di quell'assoluta stupidità. Pensi a niente e di giorno sorridi. Stai con la gente che ti fa compagnia. Nella tua vita senza più nostalgia, ma piena di tranquillità. Ma la notte, quando chiudi i tuoi occhi ripensi alle volte, alle parole infrante, alle ore interrotte, al sangue acceso che scaldava la notte, all'ultimo giorno d'estate. Ed ora se ripenso a te, gocce di sole cadono e bruciano il mondo, oltre la morte e il tempo. Lasciano stelle accese, un profumo caldo, spezza la pace intorno a me. E scioglie il sangue in petali di luce e di vento, stupida e cieca volontà. Di nascere e morire insieme in eterno, può mai finire così? Soffiava un vento caldo e le mani bagnate sfioravano le tue. Blu Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentita.